poco rabbia. Sarà una notte d'insonnia. Mi assesto, non ci riesco. È una notte di un caldo fumante. Mi conosco a menadito. Le lenzuola mi sudano addosso. L'avversità non vuole fuggire, sto cuocendo a fuoco lento. Ho mesti presentimenti, cado in un baratro profondo e insensuale. È un nervo diafano. Vuole quasi più. Cado in un baratro